Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Minuti 19:40 in questo istante. Buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. Il saluto vi viene anche da Nadia Zammitti, Laura Faggin che sono con me in redazione e in regia c'è Carmelo Lauricella. Non perdiamo tempo, andiamo subito in Mali. In Mali, dove l'esercito di Bamako, sostenuto da ormai 1800 francesi che sono nel paese, avanza nel nord, avrebbero strappato ai ribelli jihadisti la città cruciale, importantissima, di Konna, mentre è più difficile capire la situazione a Diabali, perché alcuni locali sostengono che la città sia libera, ma il timore è che vi siano alcuni jihadisti nascosti nella popolazione civile. Mentre l'ONU lancia l'allarme, preoccupazione per i profughi, potrebbero essere più di 400.000 nei prossimi mesi. Situazione complessa, in divenire con estrema rapidità, ma noi andiamo immediatamente a Bamako con la voce di Mohamed Kanouté, che è un volontario per l'associazione italiana Abarekan André Onlus e anche funzionario della Direzione Centrale per il Controllo degli Stupefacenti. A Kanouté abbiamo chiesto che aria tira e com'è la situazione a Bamako. Oggi possiamo dire che da una situazione di psicosi dopo l'offensiva lanciata dai jihadisti nella regione di Mopti e precisamente a Konna e il successivo avanzamento verso sud con la Francia che li ha stoppati all'ingresso di Sévaré, ora possiamo dire che la serenità e la calma cominciano a tornare nei maliani. La fiducia sempre più guadagna i cuori dei maliani. Pensiamo che l'intervento dei francesi, la mobilizzazione della comunità internazionale e l'impegno sul terreno delle forze maliane costituisca una garanzia per mettere un freno all'avanzata dei jihadisti. È giusto l'intervento francese e più in generale internazionale in Mali. 349-238-6666 per dire la vostra. Twitter Nessun luogo 24, il profilo Facebook Nessun luogo è lontano. Ma do intanto il mio buonasera e il mio benvenuto al sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura. Sottosegretario, buonasera, benvenuto a Nessun luogo è lontano. Buonasera a lei e a tutti coloro i quali ci ascoltano. Allora, sottosegretario, la prima domanda che volevo fare è questa. Il ministro Riccardi ha recentemente definito il teatro maliano un nuovo Afghanistan. È d'accordo con lui? Sì, Andrea Riccardi aveva addirittura per la prima volta, prima di tutti, menzionato questa parola. E credo che non solo avesse ragione, ma aveva forse non previsto quello che stava per diventare un Al-Qaedistan, non un Afghanistan. In poche parole, qualora questa accelerazione, questo gioco d'anticipo fatto dai jihadisti fosse andato in porto, mai prima d'ora avremmo avuto un intero paese sotto il controllo di Al-Qaeda. E questo sarebbe stato qualcosa inaudito e inedito e pericoloso, perché a due passi, se ci pensate bene, dalle frontiere dell'Algeria e quindi del Marocco e quindi del Mediterraneo. Quindi aveva ragione. Ecco, l'Afghanistan, la storia di quel paese ci ha consegnato, ormai nel 2014 è previsto il ritiro delle truppe ISAF, una guerra, un intervento lungo 10 anni. Su cui esiti però insomma si potrebbe disquisire e sindacare. Da questo punto di vista, come dire, fa paura battezzare il Mali come nuovo Afghanistan se dobbiamo pensare a un impegno di truppe internazionali per ben 10 anni e poi lasciare un paese, in qualche modo, mi si passi il termine, a se stesso. Benissimo, lei sa che io ho passato 4 anni della mia vita in Afghanistan in 3 occasioni fino a 2 anni fa, quindi mi creda, sono il più convinto di tutti di quanto pericoloso sia coinvolgersi in una guerra che poi dura 10 anni. Poi, avendo lavorato per 42 anni con l'ONU, siamo tutti contrari a quello che è le guerre in generale, ma proprio per questo bisogna imparare dall'Afghanistan ed evitare che lo diventi, e in questo caso non c'erano alternative. Immaginiamo il contrario per un attimo, immaginiamo che nessuno sarebbe intervenuto. e che quelle forze jihadiste che abbiamo visto altrove essere molto violente e molto aggressive fossero arrivate a Bamako. Tutto il paese sarebbe stato per la prima volta in mano al-Qaeda. A quel punto lì avremmo avuto veramente la necessità di qualche cosa simile all'Afghanistan. Prevenirlo anche con difficoltà è meglio che curarlo dopo per 10 anni. E i francesi erano gli unici sul posto e avevano 700 uomini. Certo, sono intervenuti senza consultare, hanno fatto delle telefonate poco prima di farlo, ma i tempi erano strettissimi. Tutti erano colti di sorpresa, tutti. Sottosegretario, l'Italia fornirà supporto logistico, basi, forse droni o aerei per sorveglianza e rifornimento. Sta cambiando qualcosa in queste ore? Cioè, possiamo ipotizzare un impegno diverso da quello annunciato fino adesso? Prima di tutto mi permetta di precisare, l'Italia ha indicato che sta valutando queste ed possibili iniziative. Nel frattempo l'Italia può già fare quello che ha promesso di fare prima, può accelerare, visto che purtroppo tutto si è accelerato. C'era un vecchio piano che era previsto, in cui il presidente Prodi, come rappresentante dell'ONU, aveva già preparato un piano che andava fino a settembre di quest'anno, ma tutto è cambiato con questo gioco d'anticipo delle colonne armate. Bene, quindi accelerare l'addestramento dell'Unione Europea, questo si può e si può fare subito, affinché i 24 militari italiani si aggiungano alle 200 che erano previsti da parte in europea per addestrare truppe maliane. Secondo, aiuto umanitario, l'ha detto, 400.000 rifugiati, si deve e dobbiamo aiutarli. Sostenere politicamente l'iniziativa che, come ha fatto Lady Ashton, sostiene tramite questo chi per primo è dovuto intervenire, i francesi. E poi nessun combattente, ed è lì dove c'è una differenza con l'Afghanistan, ma una possibilità, se il Parlamento lo accetterà e se il governo lo decide, di aiuto logistico, ma non ai francesi, alle truppe e ai soldati africani. Perché questa guerra, che spero sarà breve, ma purtroppo è diventata necessaria, deve essere alla fine, dopo che l'infezione è stata fermata, se vuole, dall'intervento francese, dagli africani. Ecco, io ho una, come dire, una perplessità riguardo all'intervento francese, i quali stanno già incontrando prime grosse difficoltà, cioè questa guerra forse si preannuncia molto più lunga di quello che noi pensiamo. Le tre formazioni estremiste sono molto ben armate, molto ben addestrate. Se le truppe ECOWAS già schierate in via di schieramento, i francesi non dovrebbero dimostrarsi efficaci. E se Fabius, ad esempio, chiedesse aiuto oltre al presidente maliano, l'Italia secondo lei dovrebbe valutare un impegno diverso anche sul terreno? Beh, tutto questo è basato su ipotesi. I fatti sono questi. C'erano 700 soldati francesi sul posto, c'erano 6.000 dei loro concittadini, c'erano molti italiani, c'erano 60-70 svizzeri, molti altri paesi, c'era una richiesta del presidente Traore, quindi il precedente maliano, c'era una risoluzione dell'ONU che aveva indicato che bisognava comunque aiutare i paesi africani, ci sono 7 paesi africani, sono tutti coinvolti. Beh, lasciamo prima di tutto vedere se questo è sufficiente. Secondo, credo che un intervento da parte italiano attualmente in termini militari è totalmente escluso. Quello che invece si sta prospettando come possibilità è quello dell'aiuto logistico alle truppe africane, il che è previsto anche dalla risoluzione dell'ONU 2085. Ecco, sottosegretario, cosa pensa di questo intervento? In parte lo ha già detto, ma questo intervento francese solitario e così subitaneo? C'è chi taccia la Francia di neocolonialismo e di un intervento dettato solo per tutelare i suoi interessi economici. Tra l'altro vi sono vari sms che chiedono come mai il Mali, la Francia si mobilita in tempi record e invece in Siria c'è ancora il caos. Io sintetizzo in estrema sintesi, ma ci sono esplorazioni di giacimenti di uranio, ci sono giacimenti di fosfato, c'è il Niger molto vicino, dove Areva è un interesse francese molto forte. In generale la destabilizzazione dell'area chiaramente non conviene all'ex potenza coloniale. Lei come vede questo intervento così appunto che ricorda quello libico, se mi è consentito il paragone, della Francia? Ci sono differenze, grandi differenze. Comunque, tanto per cominciare, mi pare che il presidente Assad in Siria non ha chiesto un intervento francese, mentre invece qui il presidente Traore ha chiesto specificatamente ai francesi, perché i francesi erano già presenti con 700 uomini e basi vicine. Due, tutti i paesi africani della regione preoccupati di questo contagio hanno voluto vedere questo intervento per dare loro tempo di poter fare loro il loro aiuto al Mali. E tre, è vero che ci sono interessi economici, nessuno di noi è ingenuo, ma non credo che la Francia avesse alcuna voglia di intervenire. Tanto è vero che sono stati colti di sorpresa proprio perché c'era stata un'accelerazione da parte delle truppe delle milizie jihadiste. E poi, alla fine, riconosciamo anche il fatto che è una questione di sicurezza internazionale, non soltanto di un paese. Se quel paese diventa un nuovo Al-Qaeda, questo toccherà a noi tutti. Stiamo ai fatti. Allora, ancora una volta la Francia ci ha preceduto. Facciamo un discorso, diciamo, di realpolitik. La Francia ha una politica estera estremamente aggressiva. Secondo lei l'Italia non dovrebbe esserlo un po' di più, un po' più spregiudicata? Noi alla fine siamo nuovamente, come nel caso della Libia, al traino di una decisione che fu una volta di Sarkozy e adesso di Hollande. Io non trovo che l'Italia sia al traino. Tanto vero che sta valutando con calma e con allo stesso tempo serietà le varie opzioni. Due, l'Italia ha sempre voluto, e giustamente qualunque governo l'ha fatto, il precedente, questo e quello precedente ancora, e probabilmente il futuro, voler essere coerente con una alleanza internazionale che si chiama ed è comunque NATO, e in questo caso la NATO non è coinvolta, ma nel campo europeo di solidarietà quando è necessario aiutare ciascuno di noi di fronte a delle minacce comuni. E in questo senso credo che l'Italia, che ha dei buoni motivi di temere anche lei che Al-Qaeda possa arrivare nel Mediterraneo, e di essere solidare con molti paesi africani con i quali abbiamo ottimi rapporti e che anche loro stimano la nostra posizione, di rispondere con calma, non necessariamente perché i francesi hanno preso l'iniziativa, ma perché riteniamo che il Mali non può diventare una base fissa territoriale di Al-Qaeda. Tanto è vero che noi abbiamo ancora annunciato formalmente che tipo di aiuto, ma sarà logistico. E sarà qualcosa che non ci ha chiesto la Francia, ma che ce lo chiedono i paesi africani. E se questo coincide con l'aiuto al lavoro che la Francia sta facendo a nome di noi tutti alla fine, perché in fondo qualcuno doveva fermarli, tanto meglio. Ma non siamo il traino di nessuno, mi creda, l'Italia è un paese fiero e molto chiaro anche la propria dignità nazionale quando prende queste decisioni. Nessun luogo è lontano. Je vous dis, personnellement, nous on avait pensé. Io vi dico che la maggioranza dei maliani e noi siamo contenti e fieri dell'intervento francese e il resto della comunità internazionale potrebbe appoggiare questa lotta contro il terrorismo che è una lotta senza frontiere. Oggi noi pensiamo che l'intervento francese sia salutare e non abbia alcuna connotazione colonialistica. Noi siamo oggettivi e pensiamo che a questo punto bisogna fare un appello a tutto il mondo per fronteggiare i jihadisti. Ancora una volta noi riteniamo utile la posizione della Francia, che è salutare e che deve essere sostenuta dall'insieme degli stati dell'Unione Europea, ma anche dall'America, così come già fa l'insieme degli stati africani che sono già impegnati sul terreno al fianco dei francesi per dire no al terrorismo e sì alla laicità, dire sì all'integrità territoriale, dire sì all'unità dei maliani. Donc des populations nord du pays pour garantir la sécurité des Maliens en général et des ressortissants d'autres pays qui sont à Mali. E questo era ancora Mohamed Kanouté, scusate, della Barkhane André Onlus, che lavora anche nella direzione centrale del controllo degli stupefacenti lì a Bamako, che, come dire, fuga il campo su percezioni di neocolonialismo, però adesso è presto, adesso gli stanno andando a salvare la pelle, bisogna vedere fra qualche mese se e quando le operazioni saranno concluse. Siamo con il sottosegretario agli esteri De Mistura, al quale volevo chiedere, si è parlato di soggetti coinvolti, di richiamo alla comunità internazionale a sostenere questa operazione. C'è un paese che ha dato solo il suo spazio aereo, che è l'Algeria. Però gli algerini, abbiamo visto in realtà con esiti non troppo felici il blitz alla postazione di Gas, gli algerini sarebbero quelli più preparati, perché conoscono bene il terreno, conoscono bene quel nemico, perché gli viene dalle loro viscere, perché era il vecchio gruppo salafita Predicazione e Combattimento. Secondo lei è possibile coinvolgere l'Algeria in qualche modo, sottosegretario? Certo, e l'Algeria è fortemente minacciata proprio da questo, e se ne rende conto. Ha sempre sperato, come immagino tutti speravano, che tutto questo si poteva risolvere con un piano, che era il piano un mix. Prima preparare con calma e bene l'esercito maliano, aiutare il governo maliano a coordinarsi meglio, perché come le sa è una situazione confusa anche nella capitale, fare pressioni politiche affinché negoziati con le frange non estremiste che esistono, i Tuareg e altri, e distaccarli dalle frange jihadiste che sono venute da fuori, ed eventualmente una iniziativa militare africana, ripeto africana. Ma tutto questo è stato superato dal fatto che hanno giocato d'anticipo, e l'Algeria stessa è stata in fondo vittima di questo oggi. Detto questo, tenga presente che quello che è avvenuto recentemente è da variati migliaia, più di 1500 chilometri da Algeri, quindi in una zona molto desertica. Però mi permetta di aggiungere una cosa in aggiunta a quello che ha detto il signore che parlava da Bamako. Prego. Guinea, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Mauritania, Senegal, sono tutti paesi africani che hanno chiesto aiuto alla Francia, che vogliono essere coinvolti e vogliono aiutare il Mali ad evitare questo sia un contagio. Mi pare questo già da solo dovrebbe aiutarci a sentire che l'operazione non ha sapore coloniale, e che credo che alla fine la Francia stessa non veda l'ora di uscire in fretta da questo, ma non aveva alternative, come tutti riconoscono. L'importante è che non duri a lungo, che sia chirurgico, che stabilizzato il paese e fermate le milizie, e poi si torni al processo politico e a un processo, se volete, di stabilizzazione militare africana. Ecco, anche perché stabilizzazione politica, noi ricordiamo che in Mali c'è un governo golpista al momento, giusto per ricordare quello che è successo negli ultimi mesi. L'ultimissima domanda, sottosegretario, poi la lascio al suo lavoro. Lei ha parlato appunto del dopo, l'exit strategy, perché in Afghanistan forse non era chiarissima, visto che abbiamo fatto il paragone. Qual è l'exit strategy, se ci si sta già pensando dopo l'intervento in Mali? Inevitabile che debba esserci, ed è la lezione, come lei giustamente ci ha ricordato, e francamente io me la ricordo continuamente, evitare l'Afghanistan, sia nel prevenirlo e nello stesso tempo imparare dalle lunghe e terribili lezioni Afghanistan, quindi avere un exit strategy. Io la vedrei in questa maniera, un mix con un intervento purtroppo inevitabile oggi di quello che sta avvenendo, perché se no Bamako sarebbe caduta, quel signore che le parlava sarebbe o stato prigioniero, o ucciso, o sarebbe fuggito, e avremmo avuto non 100 ostaggi ma migliaia di ostaggi. Per una volta fermata le colonne e reso fragili quelle frange di milizie, dare spazio alle forze maliane, alle forze africane, di stabilizzare il paese, e nello stesso tempo rilanciare con forza l'operazione che era guidata da Prodi come inviato dell'ONU per una formula politica, perché non c'è altro e non ce ne sono altre formule, tutto questo in fretta, non nel giro degli anni. Ma lei vedrà, questa crisi è cominciata nel giro di pochi giorni, la parte acuta non può durare molto a lungo, questo non è l'Afghanistan, c'è un deserto, tutto si vede dal cielo. Grazie allora al sottosegretario Staffano De Mistura, buona serata, buon lavoro. Anche a lei, grazie. E Carmelo Lauricella ci ricorda che tra poco volteremo pagina e andremo in Israele, perché il 22 ci sono le elezioni, martedì prossimo, non prima però di aver dato una scorsa ai tantissimi messaggi che avete mandato via SMS, via Twitter, ma anche sulla pagina Facebook della trasmissione. C'è chi dice: penso che sia giusto intervenire in Mali. C'è chi si chiede: come mai c'è così poco coinvolgimento, ad esempio la Germania, che ha dato disponibilità a un moderato minimo supporto logistico? Beh, anche la Gran Bretagna per adesso fornisce solo degli aerei. In generale è chiaro che i francesi adesso chiederanno aiuto, perché, lo ribadisco, è il teatro maliano è difficile, il deserto lo conoscono molto bene quelle tre formazioni estremiste, che si sono ben armate grazie anche alla guerra in Libia, che hanno avuto tempo, anni, mesi per addestrarsi, e che quelle dune le conoscono bene, e ci vorranno parecchi droni, fra l'altro, che i francesi hanno dovuto affittare a società private, adesso stanno chiedendo agli americani, perché, ricordava il sottosegretario De Mistura, non è l'Afghanistan, non ci sono le montagne, si vede tutto dall'alto. Sì, ma bisogna anche far partire gli aerei per vedere tutto dall'alto. Fra l'altro, ultima notazione di carattere più tattico-militare, hanno missili terra-aria particolarmente efficaci, e lo ricordiamo perché nei primi giorni, nelle primissime ore, un elicottero francese è stato abbattuto appunto proprio da uno dei technical dei jihadisti. Abbiamo detto, voltiamo pagina e andiamo a Gerusalemme, perché il 22 si vota, e quindi do intanto il mio buonasera a Paola Acaridi, giornalista, fondatrice di Lettera 22, autrice del blog Invisible Arabs. Paola, buonasera. Buonasera, posso farti una minima incursione in Mali, nel deserto? Solo a patto che mi smentisci. No, non ti smentisco, invece vorrei appunto sostenerti, nel senso che basta ricordare anche quello che è successo in Iraq. È vero che il deserto lo si vede dall'alto, è anche vero che la nostra tecnologia nel deserto ha serie difficoltà e che nel deserto bisogna starci. Dico solamente un dato così della cronaca climatica, e cioè che basta aspettare un mese o due e poi cominciano i grandi venti del deserto, che creano molti problemi, per esempio non solo di visibilità, ma anche le stesse nostre tecnologie. E fai benissimo a ricordarlo. Poi volevo rispondere a un post su Facebook che dice: un giornalista che pone il dubbio che la Francia si sia mossa per un futuro neocolonialismo e non faccia invece una domanda diretta non è buon giornalismo. Io ho chiesto, ho non solo posto il dubbio, ho ricordato i fortissimi interessi francesi. La domanda diretta dovrei farla a un politico francese, io a un politico italiano pongo il dubbio, questo sempre per cercare di fare bene il nostro lavoro, ma le critiche sono sempre assolutamente benvenute. Andiamo però in Israele. Paola Acaridi, la prima domanda è: perché queste elezioni sono importanti e se sono diverse dalle altre? Ma Israele ci ha abituato a un numero di elezioni ed elezioni anticipate veramente alto, e quindi in noi giornalisti certe volte prevale il sentimento di aver già visto tutto. Invece ogni elezione è diversa, anche questa è un'elezione diversa dalle altre. Diversa dalle altre perché si consolida, anche se spezzettato come spesso è successo nella storia elettorale israeliana, un blocco, cioè il blocco di centrodestra, io direi soprattutto di destra, che è un blocco di destra diverso da prima, perché prima il blocco di destra, cioè il Likud, era un blocco di destra in cui c'erano sì delle venature religiose, ma era laico quanto era laico il blocco della sinistra o del centro-sinistra. Invece adesso si tratta di un blocco di destra nazional religioso, come si dice, in cui la questione, la venatura religiosa non è più solamente una venatura, ma è proprio costitutiva di un sionismo religioso che poi è soprattutto concentrato sulle colonie e sulla questione del rapporto fra Israele e Eretz Israele, cioè fin dove finiscono i confini di Israele, fin dove arrivano fino al Giordano oppure si fermano prima alla linea del 67. Facciamo un passo indietro, ricapitoliamo per chi si va a votare il 22. Il 22 gennaio gli israeliani saranno chiamati a decidere la composizione della 19esima Knesset, il Parlamento dello Stato di Israele, in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere, che lo scorso ottobre è stato causato dall'ostruzionismo dei partiti religiosi minori e dalla mancata approvazione del bilancio annuale presentato dall'esecutivo di Benjamin Netanyahu. Si vota per partito, non per singoli candidati. La soglia di sbarramento è del 2%, con la quale ciascun partito ottiene un minimo di 2 seggi in Parlamento. La composizione di governo sarà stabilita in base al numero di seggi vinti da ciascun partito in competizione e il leader del partito con il maggior numero di voti riceverà dal presidente la carica di primo ministro. I candidati eletti nella Knesset dovranno poi formare un governo di coalizione con gli altri partiti che hanno ottenuto dei seggi in Parlamento. Chi rimane escluso dalla coalizione formerà l'opposizione. Sono 34 i partiti in lizza in questa tornata elettorale, con il Likud, partito conservatore di centrodestra del primo ministro Netanyahu, dato per favorito. Se il Likud ottenesse la maggioranza dei seggi, la carica di Netanyahu sarebbe riconfermata per altri 4 anni. Alle prossime elezioni, il blocco dei partiti religiosi di destra viene pronosticato come vincente su una sinistra indebolita e frammentata, orfana di quei leader, come l'ex primo ministro Ehud Olmert, che avevano fatto del partito laburista, Kadima, il partito di maggioranza del precedente governo. Nessun luogo è lontano. Vecchi mali e nuovo Israele è il titolo della trasmissione di questa sera. Vecchi mali perché vuole essere un po' una provocazione. C'è chi ha scritto: i governi occidentali presi di sorpresa dall'avanzata jihadista. In realtà chi si occupa di quella regione, sapeva già da tempo che il pericolo era lì, erano mesi che si era creato uno stato dentro lo stato. E Nuovo Israele perché appunto il martedì 22 si vota e si va a capire se Israele avrà una nuova faccia, se cambierà la sua politica estera, per esempio. Di questo parleremo con Paola Caridi, ma prima di tutto io andrei a Gerusalemme e lo farei con la voce di Alessandro Di Maio, che è giornalista e anche fotografo, al quale abbiamo chiesto 2 istantanee, 2 fotografie, una da Gerusalemme e una da Tel Aviv. Credo innanzitutto che dalla parte di Gerusalemme ti direi l'assenza di manifesti elettorali, cioè un'assenza totale, mancano. Quelli che ci sono e quei pochi che ci sono sono caratterizzati dall'assenza di volti, dei volti dei candidati, soprattutto dei volti delle donne. Dall'altra parte a Tel Aviv invece la situazione è totalmente diversa, cioè non vorrei dire che Tel Aviv è sommersa dai manifesti elettorali, perché le città sommerse dai manifesti elettorali sono quelle italiane durante le elezioni. Però a Tel Aviv rispetto a Gerusalemme i manifesti non mancano, sono veramente ovunque, sugli autobus, ai lati, sui muri degli edifici, ai margini delle strade, veramente ovunque. Potrei anche aggiungere la presenza o meno del dibattito politico, cioè di assemblee, di riunioni, di giovani o meno giovani a Gerusalemme come a Tel Aviv. Diciamo che sul tema delle differenze delle atmosfere elettorali tra le due città, dal mio punto di vista viene bene il proverbio israeliano che dice che Haifa, una terza città sulla costa settentrionale, Haifa lavora, Gerusalemme prega e Tel Aviv si diverte. Ecco, in questo caso Tel Aviv si diverte anche dal punto di vista elettorale, perché è lì che sono concentrati e che è concentrata la maggioranza la maggioranza degli elettori israeliani, e quindi è lì che si gioca più la partita. La musica che ci accompagna in questa analisi, in questa riflessione, quella degli Adag Nadash, è un gruppo piuttosto critico verso il sistema politico israeliano, e nell'analisi ci sta aiutando Paola Caridi, esperta e studiosa dell'area, alla quale chiederei: quali sono i grandi temi della tornata elettorale, di che cosa si parla, su quali temi affilano le armi i contendenti? C'è la questione ad esempio palestinese Gaza, c'è il grande diavolo iraniano? No, la risposta secca ovviamente è una provocazione. Diciamo che il processo di pace non è centrale, come invece per esempio la questione di Gaza fu centrale nelle elezioni nelle quali vinse Netanyahu nel marzo del 2009. Febbraio-marzo 2009 fu un'altra campagna elettorale molto veloce ed si era appena conclusa l'operazione Piombo Fuso su Gaza. Ebbene, Gaza fu al centro e fece vincere l'opposizione, in questo caso Netanyahu. Nelle elezioni, anche queste anticipate di adesso, del 22 gennaio, non esiste il processo di pace, perché il processo di pace non esiste da anni. La questione palestinese è ai margini, nel senso che non nel senso che non se ne parli, perché nei programmi c'è e soprattutto c'è nel programma di Naftali Bennett, che è la star in ascesa della destra israeliana, della destra radicale israeliana, o se si vuole moderatamente radicale, rispetto a una destra ancor più radicale di Bennett. La questione palestinese come un rafforzamento dello status quo. Quando parlo dello status quo parlo di una politica nei confronti della Cisgiordania soprattutto, che vuol dire continuare con le colonie, continuare con il controllo sempre più stretto su tutta Gerusalemme, dunque su Gerusalemme Est, su quella parte di Gerusalemme che va verso Gerico. Sì. E come dire, è uno status quo che io chiamo in progress, cioè in movimento, nel senso che si continua a pensare di aumentare la presenza israeliana nei territori occupati palestinesi, in quello che adesso all'ONU è lo Stato di Palestina, mentre Gaza continua a essere una, come dire, una zona a parte, un'area a parte, che addirittura nel disegno di Naftali Bennett dovrebbe andare all'Egitto. Quindi si capisce bene che un tavolo negoziale, un processo di pace per questa parte della politica israeliana è veramente un'altra cosa rispetto a quello che noi siamo abituati a pensare, soprattutto se pensiamo a Oslo, che è definitivamente morto da parecchio tempo. L'Iran c'è, ma dell'Iran non si discute, perché sull'Iran sostanzialmente poi non c'è una gran divisione fra destra e, chiamarla sinistra è un po' eccessivo, sì, centro-sinistra in Israele. Il tema fondamentale, anche se un pochino sottaciuto, ma poi non tanto, è quello socio-economico, perché di fronte all'immagine che noi abbiamo appunto della Tel Aviv di cui parlava Alessandro Di Maio, che si diverte, c'è invece una Israele dove i problemi socio-economici sono fortissimi, dove la media borghesia ha un potere d'acquisto sempre più basso, e quando parlo di media borghesia parlo di una media piccola borghesia che è diffusa in tutto il paese, anche in quelle periferie che invece sì andranno a votare, sono le periferie del paese nel sud al confine con Gaza, ma anche nella grande Tel Aviv, che non è la Tel Aviv città che si affaccia sul Mediterraneo, ma è la grande periferia degli insediamenti popolari. Ebbene, la povertà si sente, la povertà è stringente, e quello che è in ballo è un mettere in discussione la struttura portante di Israele, e soprattutto il ruolo della grande comunità ortodossa, che è sempre più forte, sì, dal punto di vista numerico, e che dovrà partecipare a questo punto al bilancio del paese. Paola, telegrafica in chiusura, chi vince? Netanyahu, ma direi più che Netanyahu, il blocco di destra nazionale religioso. E cambierà qualcosa? Sempre telegrafica? Io credo che non cambierà per il meglio per la regione, nel senso che credo che quello che dice Obama, che sarà sempre più isolata Israele, sia vero. Grazie allora Paola Caridi per questa analisi. Lettera 22, Invisible Arabs, lì potete leggere analisi e articoli. Buona serata e buon lavoro. Anche a voi, buona serata veramente. E quindi vecchi mali e nuovo Israele, ma tanto nuovo, secondo di quanto dice Paola Caridi, appunto, non sarà. Aspettiamo martedì, vedremo appunto che cosa ci consegneranno le urne. Siamo quasi in chiusura, ma siccome sono arrivati tanti sms sulla guerra in Mali, volevo darvene conto. C'è chi provocatoriamente dice: beh, la Germania fa la guerra con l'euro, stigmatizzando in qualche modo il suo forte impegno su quel fronte, e invece sul fatto che dal punto di vista logistico appunto appoggia in minima parte l'intervento francese. E poi c'è un altro messaggio che dice: intervenire per evitare un pericoloso dilagare del potere dei fondamentalisti è giusto e doveroso, ma sarebbe necessario ricorrere a una guerra se l'Africa non fosse stata sfruttata per decenni? Punto di domanda. Sicuri che dietro la guerra al terrorismo non ci siano, come al solito, interessi economici? Ma io, ripeto, la mia lettura l'ho data più volte anche nelle altre trasmissioni ho ricordato come gli interessi geopolitici ed economici francesi siano fortissimi. C'è anche un cordone umbilicale che lega Parigi a Bamako, è un cordone anche culturale molto forte e economico. Ricordiamo ancora, vi sono ricerche di giacimenti di uranio proprio anche nelle zone che adesso sono in mano ai jihadisti, vi sono grossi giacimenti di fosfato e c'è tutta quell'area del Niger dove la Francia ha grossissimi interessi, e infine poi c'è, come dire, nello scacchiere c'è questo grosso pedone che è l'Algeria. L'Algeria che fa affari appunto con i francesi, ma il gas da lì arriva poi anche in Italia, arriva in Europa. L'Algeria che negli ultimi anni aveva in qualche modo confinato il problema di Al-Qaeda nel Maghreb islamico a sud, e in qualche modo tenerlo lì nel nord del Mali alle forze di sicurezza algerine, insomma, voler essere cinici fa comodo. Certo, l'attacco poi alla postazione di gas rimette ovviamente tutto in gioco, e lì è stato, insomma, il carico da 90, l'asso nella manica di questo Mokhtar Belmokhtar, ex Al-Qaeda nel Maghreb islamico, che ha dato un respiro internazionale chiedendo la liberazione di due ostaggi americani dopo quell'attacco, e ha guadagnato una ribalta senza precedenti. Insomma, dal punto di vista tattico, un'operazione assolutamente efficace, assolutamente eccezionale. Siamo quasi in chiusura, allora titoli di coda. Io fino a qualche settimana fa... No, non erano i titoli di coda. Allora, non mi resta che ringraziare Laura Faggina e Nadia Zammitti che hanno confezionato con me questa puntata, Carmelo Loricella che gli ha dato la musica e il ritmo giusto, voi gentili ascoltatori per essere rimasti all'ascolto. Vi ricordo che potete raggiungerci su Facebook, Nessun Luogo è Lontano, Radio 24, su Twitter, Nessun Luogo 24, gli sms, beh, quelli li leggerò sabato prossimo, ore 19:15.